Wall Street, i viaggi del lupo. E ci siamo per un'altra puntata con Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi alla regia e in questa nuova puntata andremo a ascoltare, come sempre, brani diversi, ma comunque presi dal sottobosco underground, ossia tutto ciò che ancora non si sente nelle radio più famose, ma comunque che desta molto interesse e sono comunque dei brani molto particolari. Se siete pronti, direi che ci siamo pronti per partire. Allacciamo le cinture e oggi ascolteremo il nuovo brano di Floor, di Portugal The Man, una band davvero molto interessante, Day Jack, Gold Link e molti altri. Iniziamo subito con il brano di Floor, Send My Love. Sono i Floor con Send My Love, brano che proviene dall'indie elettronico. Questa è una cover del brano di Adele, con una bella ritmica e una voce molto molto particolare. Non ci sono molte informazioni su di loro, si può solo sapere che il loro album nuovo sarà rilasciato il 19 maggio, quindi li terremo d'occhio. Passiamo un'altra news di questa settimana con Portugal The Man. It's 1986 now. questo è il loro nuovo album, estratto dall'album Woodstock. La band mixa sapientemente indie con pop elettronico, poi c'ha questo giro di basso, drum e anche questo sax che entra ogni tanto, che è davvero una scelta stilistica molto bella, mi piace davvero molto. Il nome è un po' particolare, Portugal The Man. Il gruppo in realtà proviene dall'Alaska, quindi uno magari penserebbe provenga dal Portogallo. Continuiamo il nostro viaggio invece con Thundercat, che abbiamo già ascoltato settimana scorsa. Questa è Them Changes. Nobody move, there's blood on the floor, and I can't find my heart. Where did it go? Did I leave it in the cold? So please give it back, 'cause it's not yours to take. It must have fell when I lost my mind. Deep in the cup, drowning it in pain. Somebody help, 'cause I can't find my way. Nobody move. Thundercat, all'anagrafe Stephen Brunner, scusate. Il brano è estratto dal suo ultimo album Drunk, Ubriaco. E lui è un artista davvero eclettico, fonde davvero diversi generi che vanno dal jazz alla fusion, all'elettronica, all'hip hop, all'R&B. Come dicevo già settimana scorsa, ci saranno parecchi brani che ascolteremo estratti dal suo album. E settimana scorsa abbiamo ascoltato Friend Zone, ma anche questo brano Them Changes in realtà è molto molto interessante. Ora cambiamo un po' ritmo, lo stile no, però con Day Jack Supernatural Remix. Day Jack The Don. Yeah. Yeah. Let's have a run at sex, I give you a head start. Get it? I got hoes that's gonna send it. Flyer than these pigeons, got more rats than Christmas. Backwards, raw papers, even smoke with shit. Please mind your business. Whip same color as my Timbs is. You was about as big as a tits is. New York City mix fits on that pimp shit. We ain't with shit. Firm like Foxy, whole swag they copy. Zen in the oxy, moving like a zombie. Legend like Harambe, been hot since my space. You ain't talking money, get out of my face. I'm on deck like batters, blunts fatter. Run it spit on whatever, don't matter. Happier when it's Saturday, you just sadder. Walk around ladders with my goons got ladders. Yeah. Jeans looking clean, they don't need. Natural, bro. That fit is super natural.

Di Joy Mason, un giovanissimo remixer che ha remixato il brano Xilo Get Closer. Xilo, che sono un duo di fratelli che hanno anche collaborato con i Chainsmoker. Il brano in questione, come dicevamo, è un remix, e la veste che effettivamente ha dato Joy Mason è un po' più danzereccia rispetto all'originale. Ora continuiamo il nostro viaggio con Soul Walks e ascolteremo sempre un brano estratto dal loro ultimo album, ma non un brano che abbiamo sentito settimana scorsa, bensì Do You Want to Get Into Trouble. Thank you. to run away? Are you looking to get into trouble? Are you looking to run away? Wolf Trips con un bel brano dei Soul Walks, un progetto live dei Too Many DJ. Hanno rilasciato nel 2017, quindi da pochissimo, il loro nuovo album che si chiama From the Wii, dal quale abbiamo estratto questo brano che è Do You Want to Get Into Trouble. Loro sono molto elettronici e attingono il loro stile dai Daft Punk e dagli LCD Sound System. Ora andiamo ad ascoltare una novità con Ye X Squared e il loro brano Gloss. E oggi stiamo seguendo nuove strade con il nostro viaggio nella musica underground. Questo brano era di Ye X Squared, intitolato Gloss, ed è un brano nato dalla collaborazione tra Ye e Squared. Possiamo definirlo future bass, e con l'inserimento di queste pause continue e un tocco di pianoforte minimale gli dà uno stile in più. Questi sono un po' gli elementi di questo brano Gloss, che mi sa che sentiremo spesso all'interno di Wolf Trips. Tra l'altro tutte le news musicali le troverete anche su Spotify con una playlist ad hoc che verrà aggiornata di settimana in settimana. Il prossimo brano è una vecchia conoscenza, lui è Madeon, You Are On, con il remix di Grammatik. Remix di Grammatik non è proprio nuovo, è del 2015 e a parte aver mantenuto la struttura originale gli ha dato una base leggermente diversa, un po' più aggressiva, anche una carica un po' più funk rispetto all'originale. Ora, dopo la pubblicità, ascolteremo un nuovo brano di K-Fly con FML di Fareus Remix. Wolf Trips, i viaggi del lupo. I need to stop. I've been doing too much. I've been running too fast. I've been testing my luck. I've been living cloud nine. I've been at it all night. I've been feeling so loved. I've been waking up lit. I've been making up shit. I've been spilling my guts. Feeling so blessed, but stressed all day, so I'm living out my dreams like every night. I love my life. I wanna open up my eyes. What is nice? Fuck my what to say. This is the way that I like it, and I can't be bothered to attempt to change. No way. Baby, if you know what I mean. Low and high, bad and good, dark and bright. I like it just right, somewhere in between. So sweet, fuck my life. Questo era il remix di Fareus. Mi piace davvero molto questo brano di K-Fly con FML. Sul remixer purtroppo non ci sono molte informazioni, ma sicuramente calca la scena dubstep, questo remix ne è un esempio, e segue anche un po' i lavori di Flume, che ancora non ha fatto pezzi nuovi interessanti, purtroppo. Passiamo ora dal remix di Fareus a un altro remix molto interessante fatto dai French Horror Rebellion di Pretty Sister e Came to Los Angeles. Yeah. Questi erano i French Horror Rebellion Remix con Preach Sister. Funky è un po' la parola chiave delle tracce di questa puntata di Wolf Trips, e loro sono un duo di musicisti che suonano live e mischiano molto l'elettronica alle loro performance. Ora andiamo ad ascoltare un altro remix di Seppi con Dua Lipa, Think About You. And my neighbors hate me. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. And shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Continuiamo il nostro viaggio di Wolf Trips passando dal remix di Dua Lipa con Seppi a un pezzo invece di Cloud Chord con Light You, un pezzo che abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane, ma continuo a proporlo perché mi piace veramente molto.

E questo era l'ultimo brano per oggi di Wolf Trips con I Like Pluto. Lui è un produttore di Los Angeles con questo nome molto particolare, sinceramente non ho capito il riferimento. E la traccia era Everything in Black, che è un'unione tra il soul e l'elettronica, dai suoni molto molto attuali. Per oggi è tutto, spero che il nostro viaggio nella musica underground vi sia piaciuto e rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, su Radio Lupo Solitario. Ciao!